Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Brindisi dei mercati al piano europeo, si sfiorano rialzi del 10%, benissimo i bancari. Monopolio sull'ortofrutta e nei camion anche i Kalashnikov, scoperto un sodalizio tra mafia, camorra e 'ndrangheta. Governo tecnico Bersani replica a Casini, meglio costruire l'alternativa. Calcione a Balotelli, 4 giornate di squalifica per Totti, Giro d'Italia, oggi ancora una tappa olandese. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque ancora una volta la reazione dei mercati al piano europeo per salvare la Grecia e non solo, insomma, alla revisione dei patti per la stabilità finanziaria. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno, abbiamo una reazione corale molto forte da parte delle borse. Per la verità la reazione è stata piuttosto intensa ed era naturale attendersela questa mattina anche sul mercato valutario, con l'euro che da quota 1,28 è volato a oltre la soglia di 1,30 sul dollaro, sul biglietto verde. Adesso alleggerisce un po' la sua posizione a 1,2984, ma in ogni caso netto recupero e netta giornata di riscatto per la moneta unica europea nei confronti di tutte le altre divise internazionali. Dicevamo la borsa, i listini europei tutti in forte rialzo, soprattutto la Spagna stamattina brinda con un progresso del 12%, seguono poi i più 10 quasi di Piazza Affari, FTSE MIB più 9,39% in questo momento, segue Parigi più 8,59, alle prese con alcuni conflitti politici interni. Invece sono un po' più sottotono i rialzi, pur sempre buoni, di Francoforte più 4,65, di Londra più 5 punti percentuali. Naturalmente a segnare il riscatto sono soprattutto i titoli bancari pesantemente bastonati. Settimana scorsa, quando in 4 sedute le borse europee hanno perso oltre 400 miliardi di capitalizzazione, a guidare la riscossa di questo settore a Piazza Affari è Unicredit con un progresso del 18%, intesa più 17, Mediobanca più 14, Popolare di Milano più 11 e con un più 10 punti percentuali abbondanti troviamo il Banco Popolare, Monte dei Paschi e Generali. Non c'è nessun titolo negativo sull'S&P MIB, sul FTSE MIB in questo momento a Milano per l'appunto. I titoli che guadagnano meno sono Snam e Rete Gas più 2,44, Terna più 3 punti. Sta tornando la calma anche sul mercato obbligazionario con una netta riduzione dei differenziali di interesse fra i titoli decennali appunto che si confrontano con il Bund tedesco, e questo sta comportando appunto anche un ritorno alla normalità di questo mercato che è stato oggetto di forti oscillazioni la settimana scorsa. Simone, direi che per il momento è tutto. Grazie dunque a Deborah Rosciani per questi aggiornamenti. Veniamo alle reazioni a questa lunga nottata di trattative, iniziando da quelle italiane. Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Coinvolto in prima persona nel vertice di venerdì dell'Eurozona, il Presidente del Consiglio Berlusconi rivendica oggi il successo del piano di salvataggio approvato in nottata a Bruxelles. Il governo italiano esprime piena soddisfazione per la positiva conclusione del vertice, si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi, ed ancora un impulso fondamentale allo sblocco dei serrati negoziati sul piano di salvataggio della moneta unica l'ha dato il Presidente Berlusconi, spiega ancora il comunicato della Presidenza del Consiglio, quando poco prima dell'una di notte ha chiamato al telefono il cancelliere Merkel. Fino a quel momento le trattative a Bruxelles si stavano arenando. Fin qui Palazzo Chigi. Al ruolo fondamentale del Premier fa riferimento intanto anche il ministro del welfare Sacconi. Ascoltiamo le sue parole. Io so solo che l'Italia è stato il primo paese a avere chiesto una reazione comune dell'Unione Europea. L'Italia si è battuta perché si arrivasse all'adozione di una strumentazione come quella che è stata adottata. L'Italia porta una legittima soddisfazione per i provvedimenti che sono stati presi e i cui effetti sui mercati finanziari si sono visti. Anche l'opposizione, con il segretario del PD Bersani, riconosce il ruolo svolto dal governo italiano. Serve più Europa, dice ancora Bersani. Sul fronte internazionale sono molti commenti e tutti positivi. Di grande passo avanti parla dal Fondo Monetario Strauss-Kahn. Il piano è la massima espressione della solidarietà europea, aggiunge il ministro degli esteri spagnolo Moratinos, il cui paese detiene la presidenza di turno dell'Unione. È un giorno felice, afferma infine il presidente stabile della UE, Van Rompuy. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Saluto Alberto Quadri. Adrio Curzio, economista, preside della Facoltà di Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, professor Quadrio Curzio, innanzitutto una sua valutazione sul piano varato dall'Europa. Il piano è certamente imponente ed è la soluzione che andava conseguita già da qualche tempo. e che non è stata raggiunta se non ieri a causa delle molte incertezze al testa delle quali vi era ovviamente la Germania. La speculazione è stata libera di scatenarsi negli ultimi tempi e in particolare nelle ultime due settimane, dimostrando simultaneamente due fattispecie. Uno, che da due anni dalla crisi ancora la speculazione la fa da padrona sui mercati finanziari internazionali, trascurando completamente i fondamentali dei sistemi economici e buttandosi dove le sembra che si possa trarre qualche plusvalenza istantanea. Secondo, che l'Europa deve anche prendere atto che le sue debolezze c'erano e ci sono e che la soluzione di oggi è una soluzione importante e che tuttavia l'Europa stessa deve darsi delle strumentazioni adeguate per in futuro non dover affrontare nella urgenza delle nottate problemi come quello che si è presentato. Professor Quadrio Curcio, ha l'impressione che l'azione di questa notte, il piano deciso dall'Europa, possa effettivamente frenare la speculazione al di là della reazione dei mercati di oggi che era in qualche misura attesa? Indubbiamente il piano è di grandissime dimensioni perché tra fondi che mette l'Unione Europea nelle varie tipologie e fondi che mette l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, si naviga verso i 700 miliardi. Nello stesso tempo è presumibile che la Banca Centrale Europea possa direttamente o indirettamente, qui sono delle particolarità tecniche, acquistare titoli di Stato emessi dai paesi europei ed in tal modo allinearsi a quello che sta facendo la Fed ormai da anni, Fed che è andata ben oltre l'acquisto di titoli di Stato perché addirittura nessuno sa bene cosa ci sia ormai dentro il patrimonio della Fed, credo che ci sia un po' di tutto, spero che questo l'Unione Europea o meglio la BCE non lo faccia e si limiti a comprare titoli di Stato, ma credo che anche questo sia un fatto molto importante. Non irrilevante è che tutto ciò è stato comunque collocato in una cornice di finanze pubbliche sane che i paesi dell'Unione Europea dovranno conseguire, quindi mi pare che ci siano tutte le condizioni per avere un periodo relativamente tranquillo nel cui ambito però l'Unione Europea deve definitivamente sistemare i suoi meccanismi di intervento secondo anche delle linee che molti hanno prefigurato. Grazie dunque ad Alberto Quadrio Curcio, presidente della Facoltà di Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano, per essere stato con noi. E come ormai vi stiamo raccontando da giorni, uno dei punti che ha spinto la Germania a fare resistenza sul piano di aiuti era il voto in Nordrhein-Westfalia. Ieri c'è stato e ha confermato le difficoltà della coalizione di governo. La politica tedesca ha subito uno scossone ieri nel Nordrhein-Westfalia. Il Partito Democristiano ha perso la consultazione elettorale nel più popoloso land del paese e così facendo ha modificato gli equilibri al Bundesrat, la Camera delle Regioni. La sconfitta è da imputare a ragioni prettamente locali, ma non si può escludere che a pesare sia stato anche l'aiuto alla Grecia, così criticato da una maggioranza di tedeschi. Il cancelliere Helmut Kohl trascorse gran parte degli anni 90 senza l'appoggio del Bundesrat. Politicamente, quindi, governare il paese è fattibile, ma evidentemente il governo Merkel dovrà cercare, volta per volta, compromessi con l'opposizione. La sua strategia ne risentirà. Per molti versi, la politica tedesca diventerà più incerta e più difficile da decifrare, in un momento, peraltro, delicatissimo per il futuro di un'Europa alle prese con una grave crisi debitoria. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E ora torniamo all'Italia con gli aggiornamenti sull'inchiesta G8 e grandi eventi. Consulenze milionarie anche se l'appalto era bloccato, c'è anche questo nel troncone fiorentino dell'inchiesta sui grandi eventi e sui lavori per la costruzione della scuola dei marescialli. 3,5 milioni di euro per incarichi affidati dalla Cricca a professionisti esterni anche dopo il blocco del cantiere. Ieri intanto uno dei principali indagati, il costruttore Diego Anemone, è stato scarcerato scarcerato dopo 3 mesi per decorrenza dei termini di custodia cautelare, si è proclamato innocente, ma nel frattempo anche il COPASIR, il Comitato di Controllo sui Servizi Segreti, ha deciso di aprire un'inchiesta per fare chiarezza su alcuni lavori che Anemone avrebbe realizzato per conto delle nostre agenzie di intelligence. Smentite le voci di dimissioni circolate ieri sera, sarebbe intanto iniziato il conto alla rovescia per la sostituzione di Guido Bertolaso, anche lui coinvolto nell'inchiesta. Al capo della Protezione Civile venerdì il Consiglio dei Ministri affiancherà come vice il prefetto Franco Gabrielli, che a settembre dovrebbe poi prenderne il posto alla guida del Dipartimento. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Non ho niente a che fare con i faccendieri, alcuni giornali hanno lordata la mia onestà, così il ministro dei beni culturali Sandro Bondi ha respinto l'accusa di aver favorito i costruttori legati all'inchiesta sui grandi eventi, in particolare per l'appalto da oltre 29 milioni di euro per il restauro degli Uffizi. E restiamo sulla politica, Pier Ferdinando Casini aveva parlato ieri dell'inevitabilità di un governo tecnico, non è dello stesso parere evidentemente il resto dell'opposizione. Da Montecitorio, Elisabetta Fiorito. Sì, il governo di salute pubblica proposto da Casini non incontra il benestare dell'opposizione, Simone. La proposta viene bocciata dal PD, sia dalla minoranza interna capeggiata da Walter Veltroni, sia dalla maggioranza del partito guidata da Pierluigi Bersani. Per Veltroni, Casini ha in mente la politica dei due forni e il segretario del PD non è da meno. Sentiamo Bersani. Io, vedendo tutti i problemi di sto paese, preferisco lavorare per una seria alternativa. Credo che sia questa la strada per rispondere all'emergenza. Il leader dell'UDC Casini propone un governo tecnico per sanare il debito pubblico e fare le riforme, ma anche l'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro rifiuta la proposta e dice che l'unica strada è andare alle elezioni. Se la cava invece con una battuta il ministro degli interni Roberto Maroni sul governo di salute pubblica. Con questo tempo, dice Maroni, un po' di salute ci vuole, rischiamo di beccarci qualche accidente. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Tutto il mondo dello spettacolo, ma non solo, si è commosso per l'accorato appello lanciato da Terence Hill ai ladri che gli hanno rubato il portafoglio nel quale conservava i ricordi del figlio morto. Alla cerimonia di consegna dei David di Donatello venerdì scorso a Roma era sembrato solo un aneddoto. Oggi la giornata stava tornando storta, caro Emanno. A un certo punto mi hanno rubato il portafoglio con tante cose care dentro. Poi ho pensato, ma vale più un caffè con un amico che un portafoglio rubato, anche se ci tenevo tanto. Invece, le cose care per le quali Terence Hill si commuoveva spiegando l'accaduto ad Ermanno Olmi davanti alle telecamere erano una foto e le ultime lettere di Ross, il figlio morto 20 anni fa, appena 17enne, in un incidente stradale. L'attore le aveva sempre con sé nel portafoglio che proprio venerdì qualcuno gli ha rubato in via Condotti. Un trauma incredibile, confida l'eterno compagno di pellicola Bud Spencer, che era accanto a lui sul palco per ricevere il riconoscimento alla carriera. Non mi importa dei soldi, ridatemi i ricordi del mio Ross, fa sapere ora Terence Hill in un appello ai ladri che l'ha costretto a rimettere in piazza la storia e il dolore per quel figlio adottivo che aveva già iniziato a seguire le sue orme recitando accanto a lui. Ecco qua, chili e beans per il signore. Grazie. E hamburger e patatine per il giovanotto. Grazie. È tuo figlio? Ah, scherzerei. È mio fratello. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Grande cinema che racconta un periodo buio della storia del Novecento, sono i film più amati dai giurati dei premi più prestigiosi del nostro cinema, appunto i David di Donatello, dei quali sentivamo nel servizio vincere per la regia di Marco Bellocchio, soprattutto il miglior film dell'anno, L'uomo che verrà, il regista Giorgio Diritti. Le 13:19 nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato della situazione dei mercati all'indomani dell'approvazione del piano europeo e abbiamo anche parlato del piano europeo in se stesso e poi abbiamo parlato di politica con Bersani che replica a Casini sull'ipotesi di un governo tecnico. Dice meglio costruire l'alternativa e poi abbiamo parlato anche dei David di Donatello. Adesso ci occupiamo di criminalità organizzata. La DIA di Napoli e la polizia di Caserta hanno eseguito una 70 di ordinanze di custodia cautelare in carcere stamattina, smantellando un'organizzazione che imponeva il monopolio ai commercianti e agli autotrasportatori di prodotti ortofrutticoli in tutto il centro-sud Italia, con la conseguente lievitazione dei prezzi della frutta. Laura Viggiano ha intervistato il procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, sentiamo. In Intanto sono emersi i collegamenti tra più organizzazioni criminali, come i Casalesi da un lato, Cosa Nostra e articolazioni sul territorio siciliano, sia nella Sicilia occidentale sia in quella orientale. E poi collegamenti anche con i Tripodo degli 'ndranghetisti che operavano nel mercato di Fondi. La cosa che più dà fastidio è il fatto che il regime di monopolio fa aumentare i prezzi al consumo e quindi anche se parecchi consumatori, se parecchie ditte di distribuzione si lamentavano e della tempestività dei rifornimenti e dei prezzi troppo alti che venivano imposti, purtroppo non avevano la forza di reagire a questo sistema. Quindi noi pensiamo che questa indagine sia importante anche sotto il profilo del singolo cittadino, perché dovrebbe restituire un po' più di possibilità di abbassare i prezzi. Non solo frutta, nei camion c'erano anche armi e droga. Sì, la caratteristica di oggi è proprio questa, il multitraffico, nel senso che è anche in attività commerciali che si cerca di definire lecite, perché spesso fatte con gente incensurata e assolutamente inserita nel settore imprenditoriale legale, poi si fanno traffici illegali come il traffico di armi, casse di Kalashnikov venivano trasportate negli stessi camion dove c'era la frutta, così come la droga nord-sud spesse volte veniva occultata in questi autotrasporti. I clandestini che hanno un lavoro regolare normalmente delinquono, ad affermarlo il sindaco di Milano Letizia Moratti durante un convegno all'Università Cattolica di Milano dedicato all'immigrazione. Così la Moratti, subito dopo parlando con i giornalisti. No, non ho detto questo. Ho fatto presente che il Comune di Milano sta portando avanti una politica fatta di assistenza, di solidarietà, di integrazione, con tantissimi fondi dedicati a questo diciamo, percorso di sostegno e di aiuto a chi nel nostro paese ha scelto di vivere in forma regolare. Ho fatto presente che il reato di clandestinità, che è un reato, non consente l'espulsione e quindi chi ha commesso il reato di clandestinità continua a rimanere libero nel nostro paese se ha commesso altri reati. E all'immigrazione era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Il Partito Democratico ci riprova con una proposta di legge popolare. Obiettivo: concedere la possibilità di voto agli stranieri extracomunitari alle elezioni amministrative. Voi concedereste questo diritto-dovere? Era il nostro sondaggio di oggi. Hanno prevalso i no con il 61%. Giancarlo Blangiardo ha curato per la Fondazione ISMU uno studio su 9.000 stranieri in Lombardia sul tema diritto di voto. Con quali risultati? L'interesse è piuttosto ampio, nel senso che la dichiarazione mi piacerebbe andare a votare eccetera riguarda 2/3 degli intervistati. Alla fine è venuto fuori che un 42% è chiaramente orientato a sinistra e un 28% è chiaramente orientato a destra, centrodestra. Bianco o nero torna domattina alle 8:30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a Roma, dove oggi è nata Rete Impresa Italia. Ci colleghiamo con Alessandra Schepisi che ci spiega tutto. Alessandra. Sì, buongiorno. L'unione fa la forza ed è per questo che i piccoli si mettono insieme e danno vita ad un nuovo soggetto della scena politica ed economica. I piccoli sono Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Casa Artigiani, CNA, organizzazioni che rappresentano oltre 2 milioni di aziende del commercio e dell'artigianato che impiegano oltre 14 milioni di lavoratori. Da oggi sono unite in una alleanza che si chiama Rete Impresa Italia, con un proprio logo e una propria fondazione. Il primo portavoce è Carlo Sangalli, presidente della Confcommercio, che resterà timone per 6 mesi. Sentiamo un passaggio del suo intervento. Rete Impresa Italia nasce per dare al popolo del fare impresa identità e voce comune e dunque più forte, capacità di rappresentanza e di rappresentazione comune e dunque più forte. La nostra ambizione è piuttosto quella di modernizzare la rappresentanza delle imprese per modernizzare l'economia e la società italiana. credito alle imprese, federalismo fiscale e formazione, semplificazione burocratica. Queste le principali richieste del nuovo soggetto che ai tavoli istituzionali siederà con il suo portavoce di turno, puntando a far pesare la sua forza unitaria. Un'idea nata 4 anni fa, quando i 5 si riunirono all'ex cinema Capranica di Roma per una manifestazione di protesta contro gli inasprimenti fiscali dell'allora governo Prodi. Da Roma è tutto. Grazie dunque Alessandra Schepisi. In chiusura lo sport: 4 giornate di squalifica a Francesco Totti e la sanzione combinata dal giudice sportivo al capitano giallorosso per l'espulsione nella finale di Coppa Italia dopo il calcione a Balotelli. E poi il Giro d'Italia con la terza tappa che si svolge ancora in Olanda, da Amsterdam a Middelburg, 224 km. Qual è il bilancio di questa trasferta olandese? Dario Ceccarelli l'ha chiesto all'ex patron della Mapei, Giorgio Squinzi. Visto quello che è successo ieri, cadute a ripetizione eccetera, non mi è sembrata una grande idea. Il percorso effettivamente non si prestava come prima tappa di un grande giro, dove 200 corridori assaltanati per stare davanti. Ho visto una brutta corsa. Bisogna che gli organizzatori la smettano di rincorrere dei profitti di breve termine, rischiando di falsare anche la corsa. Ieri ci sono venuti fuori dei distacchi che non hanno niente a che fare col fatto sportivo, insomma, no? Colpito però l'entusiasmo dell'Olanda, sì, e anche così la grande simpatia che c'è verso l'Italia, verso il Giro d'Italia. Sì, questo sicuramente sì. D'altronde tutti sappiamo che l'Olanda è un paese ciclistico. Poi penso che una cosa che comunque è stata centrata bene è stata quella di approfittare del Giro per creare un po' una specie di vetrina del Made in Italy, che mi risulta che c'erano parecchie manifestazioni collaterali eccetera. Direi che da questo lato di vista la cosa è stata gestita bene. I miei dubbi sono di tipo sportivo, insomma. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchesi, con in regia Paolo Corleoni. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.